Bacchisio. Bacchisio da Messer Benedetto. Sì, buonasera Gianmarì. Buonasera. Dove c'è San Benedetto? Dove se ne andando, se non va gente in casa. Accolo è presto. Accolo già è presto. Presto non è presto. Bah. Beh, uscito sei stasera, a passeggio, sì? Oh, sono andato sul lupo. Beh, ho portato fuori il cane, fatto un giro e poi sono condurrato. Vabbè. A me ha fatto dei baci. Devo fare poi forse due baci, anche devo arrivare a Edo. Io mi sono andato a campagna, a cercare il ricetto. Un paio d'ore e a casa. Oh, a me ho fatto un giro. Ehi, a chi va è cominciato il filuccio? Fino a un bel, ma è un minuto ancora, comunque si hanno già avuto un poco. Per cui trinciare e poi ci frizzare. Infatti quello che ci andava a fare un minestrone. Infatti un po' trinciare, un po' così quando fai ovvi eccetera, capito? Infatti è così, a fa così quando si acciappa già è buono. È tutto buono, fare un sacchetto è tutto buono, e infatti allora bisogna approfittare che si vede. Certo, se va a fare tempo magari da voi avete fatto del buono, ne è uscito più bello, è uscito più bello, sì. Oh, deve fare un po' gudeva, anche se non andiamo male. Ma non ha gana, Cazzo, onde, in qualche luogo distruggi qualche cazzo vecchia, però che si voleva non è facile. Deve essere il tempo come sta girando, mo. Non si sa più come sta a palli. La seccante che ha fatto l'anno passato, cazzo. Era troppo, cazzo. Vediamo che il sanno possiamo cominciare l'anno passato. Ha tirato. Che non ha fatto un bene, invece non ne può fare. Abbadiato, sa. Abbadiato come tribiati in forza. Si contiene su basso, si secca tutto. Pure lui, pure gli secca. Speriamo di no, ma speriamo che qualche cosa gli era vozia. Per carità. Attento, signor Bacchisio. Mi sono chiesto la casa, io era stato a Torre Murcianzina, vera di malasera, veniva ammazzarmi, ma non aveva gara, ragazzi. Ma era un fugnone, allora, il tuo, sta sempre a domani, e casomai passiamo domani. Noi siamo entrati, ma una mezz'oretta, una mezz'oretta via, e buio, ho finito di usarrato. Cos'è il tutto che era un po' disattento? Certo che ieri c'eravamo, se o no, dalle 7 qualcosa fino alle 8 meno un quarto. All'ospedale? No, qua in frequenza. Ah! E noi eravamo a ripirare Mario, Luca e Luca del Monte, tutti e tre, siamo assati. Così che dire una senza dire, invece no, non abbia gana, allora il tuo da sempre la domani. Così che non mi sono passato lui. Vabbè. E beh, come sta? Eccoci qua. Stavo chiedendo Giomarì, come sta Graziano? Come sta? Ehi, poveretto. Non sta bene, no. Non sta bene, tutto, abbiamo un paio di macchinari innanzi, per carità, però abbiamo avuto, ha visto che era familiare di noi, ma era un po' tranquillo, però, per carità, ragazzi, speriamo bene che senta, ma il bolso è tutto. Questa è la sua influenza che ha pigliato. No, può respirare, è sempre con l'ossigeno, è con l'ossigeno che dà. Da voi gli date il nostro macchinario a riempire la bocca, a bisognare ad soffocare lui c'ha aria che gli manda lì, e non riesce a mantenerlo, e l'hai detto che viene se vorrebbe la responsabilità devi mantenere per forza, cazzo, ma se non riesci a respirare come ti fai a mantenere un macchinario, cazzo? Boh, non lo so, purtroppo non lo so. Ormai è cronico, capito? Ormai è cronico, sono attimi che bisogna stare attenti, ecco. Marco della bisi, L'asma è brutta, quella è asma cronica. Mamma mia, se manca l'aria, guai, è inutile. Basta mettere la bocca a beccia e si riesce a respirare. Cosa brutta quella lì. Sicuramente ci avrà qualche polmone che non funziona bene. Speriamo bene, no. Speriamo bene. E a chi lascia la voce a Burula, ma però si è rimesso subito, in pochi di si è rimesso. Ah, ma speriamo che si rimetta di nuovo. Mamma mia. E poi un reparto dove c'era tutta la sequestrata a me, mamma mia, Lugoveo, gatto. Sì, ero giù così, è un Lugoveo così, farebbe. Vabbè, al secondo piano è, al sesto. No, è al primo piano, al primo piano. Al primo piano l'hanno spostato, perché io sapevo che era al secondo, va, è buttato al primo piano. Ma nel padiglione nuovo. No, addirittura a noi la moglie ci ha detto che era al primo piano, noi siamo saliti al primo piano e invece c'è il piano di sotto, capito? E il piano rialzato, che dire che quello è il primo piano, capito? Ha già compreso, cioè così. Ah, lo so, perché io sapevo che quel coso lì era, prima era il secondo, in basso a Daro Brimmo. Oh, ma c'è Bacchisio, to! Aspetta. Attenzione, Bacchisio! Oh, ha detto che stava sopra nel coso, nella stazione sua. Boh. Aspetta un attimo, già vengo subito. Buonasera a tutti e due. Ah, lui gli avvisi. Andava. Mi prende Gio Maria, ha detto che già viene subito. Ah, beh, pare se lo vado a poccia, chissà. Boh. Davvero, se lo vado apposta a Bacchisio, capito? Vabbè, se me lo fa a modo suo. Sì. Ah, se ti avessi per Marino. Attenzione, Marino! Sarà sotto l'albero, la zappa in mano, to. Oh, questo si è finita nippura, si è preparando. Tu di no. Io penso. Beh. Sì. Ma già le 7:20, cazzo. Sì, te lo sto dicendo, quello si sta preparando per le Nespole. Ah, così è. Allora, se ve lo fa, la sei si preparia. Andiamo. Noi abbiamo sofferto bene, mai male. Sì, vabbè. Andiamo. Ah, sai che la gente si viva? Il Parigi, ma il ragazzo che abitava in Sant'Orso, come si chiamava? Ah, boh, io sono a metà mio. Quello che parlava da coso della chiesa. Ehi! Vittorio! Vittorio, Bacchi, Vittorio. Ehi, Vittorio! Bene, sono rientrato, buonasera ancora. Ehi, buonasera anche lì, signor Bacchi. Mentre la va? Ah, va bene, tutto bene, tutto liscio e chiaro. Così è, andave. Allora, stavo ascoltando poco fa di Graziano, stavo parlando di Graziano. Ma sei andato a trovarlo stasera, Gio Maria? Ora, Gio Maria si è allontanato. Deve essere. E così. Quando è andato a trovarla? Mezzogiorno o stasera, Graziano? Aspetta un attimo, Bacchi. Sia Bacchi. Eccolo là. Mi ascolti? Sì, che ti ascolto, Bacchi. Siamo che non stiamo uscendo. Aspetta un attimo, Bacchi. Sì. Cantami ogni tanto da fare qualche cosa, non ho delle visioni, mi tocca andare anche da. E quello della terra? Ciao, la giubbocca da Bobo, si telecomando. E sei già rovinato. Tu, sono la scena che telecomandi. Quando la biglia non funzionava, bisogna pulire la terra. Infatti, l'uso originale della giubbocca una base, e ho comprato un altro, ne ho preso, simile. Quindi si possono accordare, un pacchio simile, non ci vanno bene. Io ne ho uno, come mi hanno detto, quando il biasetto funziona, allora cosa è? Ho imparato, gli do un colpo sulla mano e funziona. E allora la batteria, eh? Bisogna toccare la batteria. No, non è la batteria, ho cambiato la batteria, le ho forzate, fatte. E qualcosa all'interno c'è, cioè, dei pulsanti, quando tu abbassi per accendere e spegnere. Il pulsante, secondo come, poi se tutta la sera premuto nulla. Lo muovo poco a poco e spegne. Così è. Ehi, vabbè, no, io l'ho comprato nuovo e ho dovuto cercare il codice nel tablet. Nella sigla del telecomando io ho dovuto cercare il codice. Perché bisogna codificarli. Esatto, il codice per i telecomandi nuovi. E se non andano, perché sono universali quelli lì, vanno bene a tutte le TV. E infatti ho dovuto cercare il codice nuovo, ho dovuto cercare il codice suo. Anzi, il codice del televisore, non del telecomando, del televisore. Ha dato il codice Radio Bushu e ha funzionato subito. Ah, che bello! E me, tutto marandato, sì, Antone. Buonasera, Buonasera, buonasera. Ma sei ma bassa di però. Cata bugusiaccio. Sempre gridando qua. La potenza, lo sai, tu l'hai visto. Ma cosa gridando che sono... Ha avuto un bel basso, insomma. Ne approfitti perché sei in alto, noi siamo in basso e ci puoi calpestare quando vuoi. Oh, è bello che l'antenna non è girata da voi, no? È girata a Badi Urbana. E quello che non riesco a capire perché sta funzionando e mi sentite così forte. C'è un motore sfasciato, quindi devo sistemarlo, adesso vedremo quando cambia la temperatura. Oggi verrà un po' più il vreco, 16 gradi c'era un fuori. Ma se c'è il motore rotto, non ci sono problemi, Antonè. Prendi un negro, lo si risopra e fa lui dal rotore. Sì, sì, domani. Oh, Iuia. Avanti, to. Sì, no, ho dovuto abbassare il volume io. Da Bacchisio a te, per tutta una cosa diversa. Vabbè, uno è per lo Iaesu, l'altro è per un coso. Un Baofeng. Io non faccio un Baofeng. E vabbè, offengo o non offengo è una cosa diversa. Io sto usando stazione base in pratica, quando da base, chiamavo così, la macchina, quale banda. Ho preso Bacchi, a Varedena, l'ho preso. E non si può permettere, noi Baofeng. E anche... Baofeng da quella a 4 centesimi un chilo. Sicuro già si può modificare il Baofeng in trasmissione. Se vai sul sito c'è un animatore che ti insegna come fare per modificare l'audio in trasmissione di quei portatili. L'ho visto l'altro giorno. Posso modificare, Antonio? Sì, si possono modificare. Ho visto l'altro giorno il sito, si chiama CRP, una cosa del genere. E c'è un sito del rematore, ti smonta tutto il portatile completo, l'otto, otto, otto, e poi ti segna, vabbè, ti fa vedere come si fanno le modifiche, c'è come impostargli direttamente dal computer l'audio, tutto, capito? Sì, si può fare allora. Forse era più il lavoro di fare l'amplificazione che comprare un nuovo. O sono andato ormai da tu, mio Antonio, l'altro giorno. Due soli ce n'erano. Sì, non va buona. Tutte se le ha vendute, aveva 8 o 10 di qui. No, due bevù. Meglio così che l'abbia venduto, sì. Almeno capisce che c'è un bel giro a Sassari. Così fa arrivare roba nuova, capito? Magari fa arrivare qui, a posto di essere portate, di quelli per l'auto, digitali, che è molto meglio. O magari, come ti posso dire, il V5 e più plus, che è meglio ancora. Oggi ne abbiamo venduto un centinaio, non c'è rimasto nulla. Allora, e cosa che fine ha fatto, che non l'ho più sentito. Graziano dice che è in ospedale, stavo parlando di Giomaria poco fa. È in ospedale Graziano. È in ospedale. Ho capito, mi dispiace. Non l'ho sentito più e quindi magari. Io perché rientra alle 8, magari se lui entra alle 7 là, perché è l'orario giusto, non è che può andare a cenare le palle a quelle che sono vicine a lui, per dire. Quindi va meglio così. Almeno ci saluta. Gio Maria, andato a trovarlo, infatti era qua su questo canale Gio Maria. Gio Maria ci sei. Gio Maria non riprende, riprende ciò. Raccontami tu di Graziano a Antonello. Avvicinati al microfono, che ti sei abbassato. Perché ce l'avevo in basso. E Tore non vuole sentire. Tore! Sì, stavo andando a rispondere, ha risposto Antonello. E ricoverato da sabato notte, da venerdì notte ricoverato. Così male sta? Dall'influenza, poi non so, dice che è attaccato all'ossigeno. Ah, vabbè, allora sto facendo la, come si chiama, tipo apnea notturna, là. C'è la macchinetta, la usava mio fratello, che ce l'ho buttata qua a casa, con la macchinetta per l'ossigeno. Ti metto la mascherina 4-5 ore al giorno. Vabbè che lui fumava le sigarette, quindi, via. Sì, non lo so, io non lo so. Gio Maria lo so che l'ha visto. Vabbè, dai. Riprendi, signor Bacchini. Io riprendo. Non sto guardando le frequenze. Mi capita di mano un fotocopia delle frequenze. Le frequenze dell'EPD, quando ce ne sono? Una marea, invece di PMR ci sono solo 8. E poi dice questo qui, te lo posso sapere di me, di quei cicli, codice CTS per PMR e 6704 07, 7109 e via dicendo. Mi sai dire qualcosa? Ah, ho capito niente di quello che hai detto, cioè la maniera di parlare lontano dal microfono, avvicinati. Metto codice GPS, che cosa però? Ah, ci sono i codici CTSS per PMR e c'è il codice 01 67,0, e poi via dicendo, ce ne sono almeno una trentina. Ah, quello già lo so anch'io, non l'ho mai usato io, lo sento tutti quei codici, in pratica parli solo con le persone che hanno quel tipo di codice, capito? Quelli c'erano i patati dei cinesi che vendono in quel locale, capito? Sono tutti così. Se io parlo, lui non mi sente, se parli tu io lo sento a te, il discorso è quello. Anche se siamo allo stesso canale. Capito. Allora, come c'è la Gio Maria? Gio Maria dice c'è quel sistema lì. E vabbè, basta metterlo sotto coso, ti scarichi il programma dal computer come c'è l'attore e te lo imposti tu. Capito? A me me l'ha fatto Stefano per Pinuccio e tutto il mondo, me l'ha fatto. Mi ha scaricato il programma e ce l'ha nella pennetta, quindi. Ho capito. Poi qua ci sono le frequenze PMR, quelle stiamo usando noi. E qua addirittura ci dice 44 60 81 25. La frequenza è 462-125 di quella di quei portatili. Se compri uno e parli con tutti quelli che ce l'hanno, questo è poco ma sicuro. E la frequenza ministeriale è quella, poi d'altronde non è che siamo a frequenza normale. Quindi non lo so, io non la uso quella lì, però è proprio una frequenza ministeriale, strano che gli abbiano data. Vabbè, che è quella da bacinese. No, è quella frequenza che stiamo usando adesso noi. Noi siamo 44, 60, 81, 25, e questo è uguale. E io quando ho preso quelli di cosa? Di Pinuccetto, te lo sto dicendo. Erano 16 canali. Poi quelli in VHF non lo so, perché c'è il modello che fa VU addirittura, che poi sono uguali. Non devi fare altro che impostaglielo tu, gli imposti 8 canali VHF e 8 in PMR e uno DCD. Lo fa direttamente dalla. Ti scarichi il programma e della 888, della Baofeng, e sei tranquilla. Ehi, Baofeng, sempre Baofeng siamo. Avanti Tore, il signor Baofeng. Sono il coso. Io ce l'ho il programma, però non so come, se non lo vedo farlo da qualcun altro, non mi fido a farlo. Ehi, vabbè, quando sale Stefano al limite, te lo faccio, al limite te lo faccio spiegare da lui, non costa niente. Così te lo scarichi in una pennetta e sei a posto. Lui ce l'ha scaricato in una pennetta, capito? Io ce l'ho dentro il programma, ce l'ho nel computer, ce l'ho già dentro il computer. L'unica cosa che devo fare è che devi attaccare il portatile al computer e salvare quello che c'è e caricare, poi cancellare la frequenza e mettere il codice del PMR, i numeri del PMR. E così deve fare con quello lì, con quel programma di quei portatili. Così ha fatto Stefano, capito? Ha cancellato quelle frequenze lì e ci ha messo quelli del PMR, una per una ha messo, anche quelle LPD, capito? Poi ha cancellato tutti i toni che ci sono, i tono square, eccetera eccetera, capito? Se no è un casino, perché non ti legge il portatile, capito? L'unica cosa che legge in pratica quel programma è scaricato lì da internet da quell'arrivatore, tu scrivi 888, Baofeng, ti scarichi il programma e sei a posto. No, io ce l'ho già, avevo già scaricato, ce l'ho già io il programma nel computer. Infatti avevo fatto il coso mio, invece avevo scomodato tutto che non sapevo. Però adesso che lo so, una volta che me lo faccio vedere lo so ad operare anch'io. E appunto per quello, ti sto dicendo. Vai su CDP, scarichi tutto, quello che c'è da scaricare. Aspetta che pensavo che me l'hai andato a vedere. No, io l'avevo già scaricato. Ok, le prendi i giabacchi. È così. Domani le do a Luca, me li fa Luca. Sì, dalla a lui, io. Se mi pongo già verdesce io burro, però è troppo lunga la cosa. Ah, non ho idea. Non ho idea di come sia la situazione. Se ci vuole poco, ci vuole molto, se fate il coso o no. Boh, all'acqua ero io. Io se lo vedo facendo mi metto, lo faccio anch'io, mi devo solo vederlo come ti va. Bene, chiaro. Da maestro Antonello vai. Perché il cavetto ce l'ho, il dischetto ce l'ho, il programma nel computer ce l'ho già, l'unica cosa che devo fare è vederlo nelle... facendolo come devi fare. Io sicuramente ci riuscirò anche così, piano piano. Sbagliando si impara, dice il proverbio. Sì, perché cosa Luca mi aveva detto, dice, non devi cancellare tutto quanto, devi cancellare solo i numeri, lasciare la vecchia sigla che c'è, e cancellare i numeri e rimettere quelli del PMR. Ecco cosa devi fare, non c'è altro da fare. E senza cancellare neanche la cosa della radio, perché c'è la frequenza della radio pure. Anche la radio, cioè. Non sono riuscito a accendere allora io la radio, non si sa. Vediamo domani tutto. Bene, signori, io vi devo lasciare perché è arrivato il merendero per me. È l'ora di preparare il tutto. Bene, Tore, grazie della chiacchierata, anche Antonello, grazie della chiacchierata, Antonello, alle prossime. Io portare una novità a vedere, se riesci a cavarne i piedi. E dunque, ti dico al telefono, io non te lo posso dire. Ti dico via telefono cosa mi devi fare. Ok, ciao Antonello, ciao Tore, buona serata ancora. Ehi, andate Bacchi, ci sentiamo domani, se tutto va bene. Domani sono ad accompagnare a mio nipote alla logopedia, ma penso di esserci qua alle 7. Bene, bene, sentiamo allora. Sì, ok, ciao Bacchi. Antonio! Qua sono, ciao Bacchi, ci sentiamo, buon venerdì, già ci vediamo, non ti preoccupare. Dimmi tu Lindo. Sì, andiamo. Che fine avevi fatto? Deve già mendito Manzano. Al telefono? No, aro Gosio del Giamelli, qua. Ah no, non ce l'avevo preso stamattina, anche perché mi sono svegliato alle 7:30, per esattezza, poi io dico cazzo, alle 7:30, alle 5 per esattezza, alle 7:30, c'è un po' più sonno, poi alle 7:30 sono alzato, ho fatto colazione alla mia 25, e gli ho detto, cazzo ci faccio, ho detto lì, di domenica mattina. In piedi a quest'ora ho preso verso le 8:30, ho preso, mi sono nuovo riaddormentato, mi sono svegliato alla 1 figurati, mi sono svegliato mezzo rincoglionito, sono meno male che devo uscire presto domani mattina, quindi andiamo a portare presso il PMR domani, al limite se torni presto già ci sentiamo. Ti preoccupa, già entro in PMR, come una volta, già entro. Sì, andavi, tanto io domani sono qua alle 7 qualcosa, devo accompagnarmi nei buddi, devo accompagnare, quindi sono impegnato tutta la guida, però dalle 7 in su già sarò libero. Ah, e allora già entro alle 7, non c'è problema. Altre cose non è che le stiano molto, guarda qui. Più altro, c'ho la direttiva picchiata, poi stasera c'era freddo, c'era, no, soprattutto non ci sta con Marco Motto oggi. Che puntata, dalla parte di che puntata. Al ripetitore lì, quindi a Bande Urbana. Evidentemente esce meglio, non è cazzo ne so, quest'antenna è strana, questa direttiva che ho io. Poi c'ho la discona. Ho staccato la X300 e ho messo la discona. A me la posso usarla e mi diverto un pochettino. Aspetta, Lefro, che risponda. Sì, dai, ci sentiamo, Antonio. Alle prossime, dai. Ciao. E io, ciao, alle prossime. A dopo, ciao.